Voce. Sandro Lombardi legge Casa d'altri di Silvio D'Arzo. Quarta puntata. E un colletto ancor nuovo e una cotta usata due volte a dir molto e qualcos'altro del genere, alla fine riuscii a mettere insieme un fagotto anche più che passabile. Ci infilai in mezzo una rama di frassino e me lo provai sulle spalle. «Qualcheduno vi cerca di là», entrò in quel momento la Melide e rimase sull'uscio a guardarmi. Ero proprio un bel po' imbarazzato. Non che ci fosse niente di male, d'accordo. Certo, ero molto ridicolo. Posai il sacco e passai nello studio. Stavan lì ad aspettarmi due dirigenti delle figlie di Maria, di Grappola, giù a valle. Erano venute su a monte per una storia più vecchia di me. Un pellegrinaggio ad Europa o a Loreto, o magari anche in tutti e due i posti, che un po' per mia colpa si rimandava sempre a un altro anno e che ormai bisognava pur fare. Oramai bisognava pur fare, ripetevano senza guardarmi. Questo era fuori discussione, si sa. Tutte le quote erano già state raccolte. Veramente non tutte. Il mio elenco, per esempio, mancava. La montagna cominciava già a mormorare, niente di grave, mezze voci soltanto. Almeno per ora, intendiamoci. Mi rendevo ben conto? Capivo? Davvero erano gente curiosa. Tenevano gli occhi abbassati e le labbra strettissime, come fossero offese di tutti e di tutto, e di me più di ogni altro. Due rimproveri incarnati, per dirvi. Ma io non badavo a nient'altro che a tenere gli occhi a quel pezzo di sole. Adesso c'era. E di colpo spariva e poi dopo un po' riappariva come fosse già in agonia e resistesse solo per farmi piacere. Davanti a loro mi pareva d'aver 18 anni. Dicevo sempre di sì. Come no? Si capisce. Ci sarebbe stato senz'altro quest'anno e avevo scoperto perfino un progetto che non doveva essere peggio di un altro. Lasciarono cadere freddamente la cosa. «Sì, ma per le domestiche?» chiesero un po' contegnose. Mi voltai a guardarle come uno che si sia allora svegliato. «Le domestiche cosa? Scusate!» Quelle strinsero le labbra anche più. «Si diceva, si degnarono con sofferenza, se tutte le ex domestiche possono essere accolte oppure solo quelle con un servizio di almeno 20 anni. Beh, io direi tutte. Sì, tutte. È la cosa migliore, mi pare». Si consultarono un momento con gli occhi. Sotto il naso apparve e sparve di colpo qualcosa che per gente del genere poteva essere anche un mezzo sorriso d'intesa. Io sentii vagamente la trappola. «Oh, può darsi, può darsi», ammisero con deferenza eccessiva. «In questo caso però ci vorrebbero almeno 3 macchine in più, forse 4. Ma se lei può procurarcele, se si capisce, lei è in grado?» Non ero in grado di niente, era chiaro, e lo sapevano, anche meglio di me. Si misero tutte composte a guardarmi per godersi in silenzio l'effetto. Parevano come impagliate. Allora solo quelle con almeno 30 anni. Sì, forse è meglio così. Solo quelle. Mi diedero un'occhiata compunta, come a un incomprensibile idiota. E poi ancora si guardarono fra sé. Il sole c'era e non c'era. altre nubi venivano da monte. Cominciavo sul serio a stancarmi. Mi lasciai andare ancor di più sulla seggiola con una placidità vergognosa. «Beh, ragazze», dissi io, cercando anche un mezzo sbadiglio, «arrivederci a Loreto o ad Europa o magari anche in tutti e due i posti. Mettete insieme una bella cosetta, capite? Ma il fatto è che adesso, purtroppo, ho un bel mucchio di cose da fare e così, se non vi dispiace, me ne torno a tirar la carretta». Era un passare la parte, lo so, ma così le due oneste galline se ne andarono via sgambettando. L'ultima cosa che vidi di loro furono quattro magrissimi stinchi e due cappelli con frutta di stoffa. E mi parvero offesi anche quelli. Neanche questo mi piacque granché. Una strana giornata, pensai. Tutto sommato, una strana giornata. Che giorno oggi? Chiesi alla Melide. Mercoledì 6 novembre, mi disse. Mercoledì 6 novembre. Tutto sommato, una ben strana giornata. Diversa. Pare che stiamo perdendo clienti. Cercai io di scherzare. Il tono era proprio, però, un po' sforzato. Certe cose non possono piacere. Non c'è nessuno a cui possano piacere. La Melide fu lì lì per parlare. Guardò il pacco e non disse una parola. Io me lo misi in spalle ed uscii. Così mi lasciai indietro le case e lo stagno e poi la locanda e poi Camposanto e Torbiera e dopo un poco ero solo. E attorno a me non c'erano che gole e calanchi e più in là qualche pascolo e più in là ancora il costone dei monti. Dopo quasi due ore arrivai al sasso scheggiato dove una notte il pastore venne ucciso dai sette fratelli. Dopo un'altra mezz'ora ero là. La prima cosa che vidi, un 30 metri giù in basso, fu proprio la capra di lei. E questo era già un po' di più di quel che m'ero augurato in partenza. Ormai era il tramonto. Là al fondo le gole avevano il colore della ruggine vecchia e l'aria dava già nel celeste. E chi non sapeva che più in là c'era Bobbio, poteva anche pensare di trovarsi ai confini del mondo. Ed ecco là la mia vecchia. Se ne stava seduta sullo scalino di casa a filare e non guardava né Rocca né Fuso e di certo doveva pensare a una cosa ed a quella soltanto. Ecco un incontro come si deve. Mi dissi, non c'è nessuno, e poi è l'ora di cena, e il silenzio deve pesare un bel po' anche su lei. Ormai dovrà pure discendere. E mi avviai per la china, ma la vecchia dovette sentirmi. Senza nemmeno alzar gli occhi, si levò subito in piedi e raccolse cesto e conocchio e tirò la corda alla capra che frugava alla siepe, e in un minuto tutto sparì dentro l'uscio. Sulla strada, lì dallo scalino, non rimase che il paio di zoccoli e io, che stavo a guardarli con bastone, fagotto e ogni cosa. Non avevo ancora intenzione di far ridere le piante lì attorno, tanto più che sentivo che di là dall'usciolo lei restava in ascolto anche adesso. Mi rimisi senz'altro per via. Dai costoni dei monti e dai pascoli veniva giù il color blu della notte. Non c'era più grama compagnia di quell'ora. Mi sorprendono certi pensieri, e i ricordi v'entrano in corpo. Tutto qui vi viene fatto di chiedere, e sicché un uomo non è più neanche un uomo. Dopo neanche mezz'ora, però, sentii il cigolare di un carro. Naturalmente era il sarto. A quell'ora e in quel posto non poteva essere nient'altro che lui. Tornava dal suo ultimo giro prima del cader dell'inverno. Mi fermai ad aspettare. Era lui. Siccome era stato ai suoi tempi in Savoia e aveva viaggiato qua e là e faceva quel mestiere da donna, aveva modi tali e quali un francese. Mi fece un monte di galanterie e gentilezze e bonjour e alla fine mi disse se volevo salire con lui. «Non state a tentarmi», gli dissi. Fece un gesto da mezzo signore. «Sareste il primo quest'oggi», disse subito lui. «Non sono riuscito a tentare nessuno in tutto quanto il mio giro. No, nessuno, neanche una donna». «Beh, bisognerebbe prima sentire quel che ne pensa l'amico», e accennai la sua bestia. «Oh, carne benedetta non pesa», disse lui, che aveva una frase gentile per tutti e già mi faceva posto sul carro. Per tutto il viaggio non dicemmo una parola. Era notte, non si vedeva una casa, avevamo i colletti bagnati e due vedovi era meglio di noi. Io avevo fatto il viaggio del povero e lui quasi peggio di me. Neanche un mezzo vestito, uscì a un tratto ridendo un po' agro. Non sono riuscito a vendere neanche un mezzo vestito in tutt'oggi e mi son portato fin sotto i calanchi. «Hanno quelli da soldato», dissi io. «Per l'inverno fanno il loro servizio anche quelli». va bene, sempre per modo di dire però», disse lui. «Ma allora perché farmi parlare per mezz'ora ogni volta? Io mi domando questo soltanto, perché farmi srotolare tutto il sacco? Andate in Francia o in Savoia e vedrete». Si era voltato a guardarmi. Doveva essere offeso sul serio e pretendeva che io gli rispondessi. «Vi capisco», dissi io con stanchezza. «Vi posso capire. Ma per loro è un divertimento anche quello. E non ne hanno molti altri. Ecco il fatto. È gratuito, oltre a tutto. Ah, bellissima. Io non c'ero neanche arrivato. Parola che c'è quasi da ridere», fece un po' il superiore. «Fa già freddo», dissi io per finire. Sentii che mi stava guardando e anche più attentamente di prima. Mi considerava professionalmente, capite? Per un po' se ne stette in silenzio. Mi guardava e guardava e taceva. «Quella matta, che matta», pensavo. «Sapete una cosa?» mi disse toccandomi il gomito. «Conosco dei preti in città che sotto la tonaca portano calzoni alla zuava. Gente in gamba, moderna, tanto più che nessuno s'accorge». Aspettò sorridendo. Io non dissi parola. «Che sia uscita a pigliare i suoi zoccoli?» pensavo tra me. «Per la bicicletta, intendiamoci», s'affrettò a precisare. «E non ha neanche torto a pensarci. Deve essere molto più comodo, no? Oltre a tutto, dato il caso che li chiami di notte...» «Sì, sì, in città ce ne sono. Può darsi che ce ne siano, in città». Si voltò ancora a guardarmi. «Ah, ma non solo in città. In montagna, anzi, mi pare...» «Sbaglio o quello è il paese?» volli sfuggirgli di mano. Con improvvisa dignità l'ometto tirò con forza le briglie alla bestia. Si era fatto un altro di colpo. Giunsi a casa alle 10 di notte. Attraversai la piazzetta di sasso. I miei passi si sentivano fin verso Bobbio. Da una stalla uno spinone abbaiò. Appena entrato in parrocchia, il ragazzo mi disse che nel pomeriggio era venuta la vecchia a consegnare 2 ceri e 1 lettera. E poi era scesa al canale. E poi era ancora tornata a prendersi indietro la lettera. «E lì sono i suoi ceri», intervenne la Melide. E non riusciva un momento a sviar gli occhi da sacco e bastone. Ma io adesso pensavo alla lettera, a quella e a nient'altro. E perché l'avesse scritta? E a cosa mai poteva esserci dentro? E perché era venuta a riprenderla? E anche se non avessi avuto nemmeno le scarpe, non ci avrei badato tanto così. Dovevo incontrarla però qualche tempo più tardi, una notte. Tutto il giorno era piovuto e piovuto come capita solo da noi. Non un solo pastore s'era sentito di mettersi in via e tutti se ne stavano lì, dietro gli usci, a impagliar seggiole e ceste o a preparare le castagne per i giorni del freddo o a far trappole da mettere nei boschi. I fossi erano già grigi di acqua, il canale era in piena, dalle gronde rotte l'acqua cadeva a gomitoli e non una gallina o un cane o una talpa dalla piazzetta fino in fondo alla valle. Aprii la finestra che dà sulla piana. Strisce di pioggia e odor d'erba bagnata invasero tutta la stanza. «No, no, no! Questa non può certo chiamarsi una buona giornata per lei», dissi e chiusi di colpo. «E domani sarà peggio ancora. E così per 3 mesi a dir poco. E a meno che non abbia un bel mucchio di lettere da scrivermi e poi ripigliarsi, mi pare che per la vecchia signora sarà una festa tutt'altro che allegra». E così tutto il giorno. Ma poi alle prime ombre cessò. E quando nelle stalle le lanterne si accesero, spuntò anche la luna. Non rotonda come in agosto, si intende, ma più furba e più lucida e fresca, come l'avessero tolta da un secchio, e tutti i monti con le creste già bianche e di pascoli e il cimitero e di boschi e giù all'altro lato la valle mi si aprirono più grandi che mai, tutto giovane e azzurro con qua e là qualche picchio d'argento. Si sentì uno sparo dalla parte del valico e dopo un poco altri 2. Ad onde sempre più vaste il rumore si allargò per l'intero versante. Piano piano affondò verso valle. Erano 3-4 anni e anche più che per tutta la zona non capitava una cosa del genere. La guerra era morta da un pezzo. Si svegliò tutto il borgo. Da ogni parte calci e ragli di muli e pianti di bimbi svegliati di colpo e gente che s'alzava dal letto e veniva a metter l'orecchio sull'uscio. Ma nessuno tirava il paletto o s'affacciava in strada o dalla finestra gridava chi fosse. Così anch'io. Ancora mezzo svestito, non sapevo decidermi a uscire. Me ne andavo dal letto alla porta e poi ancora a letto e mi fermavo lì in mezzo alla stanza a tentare di infilarmi le scarpe. Un po' di tempo passò, forse molto. Riuscii a infilarmi una scarpa e poi l'altra. Mi affacciai sulla strada a guardare. Non c'era più un uscio chiuso. La luce delle candele e delle lanterne attaccate alle travi arrivava ormai fino in mezzo alla via. Qualche donna vestita sì e no, con in braccio il bambino più piccolo, appariva qua e là sopra gli usci. Una gettò al marito giù in strada una federa vuota e poi un'altra. Un ragazzo, senza neanche fermarsi, si legò con una cavezza ai calzoni e corse via per la strada di monte. Tutti avevano un vaso o una secchia e i ragazzi una berretta e anche 2. «Ehi là, gente! Un momento. Cos'è? Chiese lì dalla porta. Quelli andavano via. E così i vecchi, e perfino una vecchia da sola, e una famiglia al completo, padre e madre e ragazzo, come l'ultima notte di Troia. Non riuscivo a capire neanche tanto. Poi il ragazzo arrivò di gran corsa e da allora ogni cosa fu chiara. Quattro mule con della farina venivano giù per la strada del valico, dalla parte del bosco dei cerri. Ma non c'era la luna, pioveva. È un bosco, e la notte è la notte. I carabinieri saranno messi a sparare. Così due mule erano mezze impazzite e avevano preso a scappare qua e là in mezzo a forre, calanchi e torbiere, e adesso in qualche posto vicino erano sparsi per terra 6 quintali di farina e anche più. Tutti quanti correvano a prenderne. «Fate presto!» mi disse anche lo stupido prima di scappare via ancora, «perché ormai la prendono su col cucchiaio!» «Si capisce!» dissi io. «Come no? Quando piove, piove anche per me!» E dopo poco ero in via. Ma era chiaro che pensavo a tutt'altro. Per via ormai non restava nessuno e la gente tirava i paletti. Le candele a una si spensero. Quando giunsi alla strada di monte, la speranza era un soffio, sì e no. E poi, invece, all'altezza del frassino morto, vidi laggiù la mia vecchia, col grembiule rialzato anche lei. Era quasi nascosta dall'ombra che tagliava il sentiero a metà. Le fui subito al fianco. «Ecco qua», cominciai un po' a scherzare. «Per questa non siete venuta a domandare la regola. La regola la sapevate, per questa», e indicai la farina. La mia vecchia si ritrasse nel guscio. Era più spaventata di un topo. «No, no, adesso scherzo. Aspettate», dissi allora prendendole un gomito. «Vengo solo a pigliar la mia lettera». Sandro Lombardi ha letto Casa d'altri di Silvio D'Arzo, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.